sei come un mare che cambia colore, però non cambi mai. Sei come un cielo che prova a dormire, ma il cielo non dorme mai. Conosco il viso, bella è la tua voce, però non so chi sei. Un orologio che conta le ore, ma il tempo non passa mai. Sei come l'acqua che cade a gocce, pure pioggia non sei. Un tuo sorriso può farmi del male ormai. E tu ti siedi qui tutte le volte che non chiamo, però te ne vai subito tutte le volte che vorrei. Sei come l'allegria che non annuncia il tuo sorriso, ma poi ti cambi d'abito e solo aspetto tu. Sei tu la stella che vedo cadere, però non cadi mai. Un'emozione che non vuol morire, però non guarisce mai. Pistola che punta il mio cuore, che aspetti a sparare, dai. Sei tu una fiamma senza calore, pure fuoco non sei. Una moneta che gira e non cade mai. Ed io ti aspetto su, chiudo la porta e poi mi siedo, ma poi mi sento stupido, scendo le scale e non ci sei.